Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Eccoci qui, sono le 9:08. Cari amici, questi sono i funamboli. Io mi devo ancora riprendere dalla mitragliata di parole del presidente Orazio Lotito che poco fa, da Luca Telesio a Oscar Giannino a 24 mattino. Tu, Veronica, tifosa laziale, no? Il tuo presidente, hai sentito con quale verve? Ho sentito anche con quale entusiasmo, sì, e convinzione. Purtroppo tu sai che il mio semiateismo calcistico, sì, non mi aiuta ad avere una passione di natura, insomma, sportiva alla faccenda, tra una curva e l'altra. Diciamo che mi appassiona più la questione, come dire, socio-culturale, sì, guarda, tutto. Se volete, cari ascoltatori, 800 24 00 24, ne parleremo anche qui. Anzi, ne parleremo anche qui, perché alle 9:30 qualche un po' di minuti dedicheremo a questo. È uno degli argomenti che abbiamo fissato per la giornata. Io dico solo che sarò diventato cinico. Eppure non sono neanche tanto vecchio, ho 47 anni, neanche. Ti preavviso che sta entrando qui Luca Telese per fare non so che cosa. No, va bene. Va bene. Eccolo qua. È entrato, è molesto. No, sono abbastanza. È l'effetto Lotito che gli ha procurato. Sono abbastanza basito da tutta questa serie di chiacchiere, di parole, di ipocrisia. Dai, lo dico, di ipocrisia. Cioè, imparassero a fare in modo che gli stadi non fossero dei luoghi, soprattutto nelle curve, di totale impunità, dove si spaccia, dove si compiono crimini continui, ripetuti, non dico con la connivenza di qualcuno, però insomma, ecco, magari se metti in un luogo fisico ben definito persone che delinquono, dovresti saperlo, no? Che lì noi ieri delinque. Abbiamo dibattuto a lungo, tu lo sai, su questa tematica, perché non intendendomi io di calcio, ti chiedevo da cosa dipenda lo strapotere degli ultra e perché possano fare quello che vogliono con impunità assoluta. Che guarda, nel caso di Lotito, nello specifico, neanche così, perché lui davvero è sotto scorta perché ha preso le distanze molto dai tifosi, eccetera. Però le curve, le inchieste, parlano chiaro, sono luoghi di totale impunità. Impunità totale, lo sanno tutti, e quindi anche le società di calcio. Quindi il fatto che ci sia una connivenza da parte delle istituzioni, tu stai sottintendendo questo, poi porta a fenomeni di questo tipo. Diciamo, non lo so. Ci si poteva svegliare prima. Diciamo che, non lo so, a qualcuno va bene così, oppure non si ha la forza per sradicare questo tipo di impunità. Perché oggi tu mi polemizzi e mi dici a che serve leggere Anna Frank, a che serve dare il libro in mano a questi serve, qui, sono carità, tutte cose ipocrite. Per carità, io posso convenire con te che se sono cose isolate diventino cose ipocrite, e può darsi. E durano due giorni, soprattutto per mettersi, chiaro, la coscienza. Anzi, a posto, serve proprio per pulirsi la coscienza. Però devo dirti, invece, a mio avviso, il fatto che, perché io sono convinta che molti non sappiano nemmeno chi sia Anna Frank, il fatto che gli venga imposto dall'alto di prendere un libro in mano e per forza di cose debbano venirlo a sapere, se è associato magari ad un DASPO eterno per quelli che sono stati identificati, tra i quali c'è un ragazzino di 13 anni. Sì. Ora, che un ragazzino di 13 anni, che probabilmente non sa nemmeno chi sia Anna Frank, lo faccia per sfidare il tabù di qualcosa che gli è stato detto che è intoccabile, è una cosa abbastanza allarmante. Bene, allora, ben venga che gli appioppino il libro e che siano costretti a leggerlo. Ma sì, ma va bene, rieduchiamolo, per carità, però adesso, perché che ci sia anche un po' veramente di analfabetismo e di ignoranza selvaggia dietro a queste cose, è indubbio, e bisogna capire se è più grave il fatto che venga fatto con dolo, venga perpetrato con dolo l'accusa perché voi siete ebrei, o il fatto che si sia invece totalmente ignoranti e digiuni, e si capisca che quella cosa è brutta. Perché brutta non lo so, ma brutta. Io non lo so, dico che è un po' di... Non mi piace oggi, infatti, il giorno che ho qui come edizione del Nord, che titola La grande ipocrisia, tra l'altro c'è la foto di Lotito che è andato in sinagoga. Vabbè, lasciamo stare poi la dedica ai fratelli fratelli ebrei con la A con l'H. Vabbè, ma sarà stata una svista. Sarà stata una svista. Sarà stata una svista che però ti riporta esattamente quello che ti sto dicendo. Cioè, ogni tanto che ci sia un'imposizione coercitiva dall'altro, anche se non sai sallo, come si dice, sì, cioè studiarle le cose, conoscerle, ecco, ogni tanto magari dà una mano, no? Dà una mano. Comunque, 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. Tra l'altro, questo numero WhatsApp lo volete usare anche per le nostre rubriche? Noi raccontiamo i lavori strani che fate, e se volete proporceli, oppure se vivete all'estero ci volete contattare, noi poi vi chiameremo in onda nella seconda parte dei Funamboli. Ma Veronica, dobbiamo partire da un altro tema, vai! Se qualcuno ci ascolta può chiamare i soccorsi, vi prego. C'è qualcuno che lo può soccorrere? Ma io non lo vedo respirare, è morto. Questo video che Andrea Speziali, 29 anni, ha messo sui social per raccontare in diretta il fatto che un ragazzo di 24 anni, Simone Ugolini, stesse morendo, questa è la verità. Gli è valso, cara Veronica, dire, adesso a lui è valso un odio sociale totale, perché lui ha trovato questo ragazzo tornando dalla discoteca per terra, riverso per terra, caduto dal motorino, e l'ha ripreso sì, dicendo queste frasi, no? Se qualcuno... Ha fatto una diretta addirittura, al punto che si è rimasti anche perplessi, perché lui dice che i soccorsi erano già stati chiamati, cosa che adesso verrà accertata, che fossero state chiamate delle ambulanze da un tassista. Ma il fatto che lui invece nella diretta dica se qualcuno può intervenga, chiami i soccorsi, fa ipotizzare anche il reato di omissione di soccorso prima degli altri reati, Ale, che non si sa quali sappiano. Beh, quali siano, scusami, perché guarda, la procura pare che lo voglia indagare, lo stia indagando per divulgazione di atti osceni. Sull'omissione di soccorso, violazione della privacy. Bisognerà vedere. Però il tema è che è di fatto la morte in diretta, filmata e mandata in onda sui social. Con noi c'è Renata Tosi, che è il sindaco di Riccione. Buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie di essere qui. Grazie a voi. È vero che il comune si costituirà parte civile in caso di processo nei confronti? Ma mi sembra il minimo. Io ancora adesso, sentendo quelle parole, mi vengono i brividi, e quindi al di là di quello che poi saranno le indagini ed eventualmente i capi di accusa, io credo che debba essere assolutamente alzata l'attenzione su questo fatto, e da questo fatto anche una riflessione sulla mania di protagonismo e di, insomma, essere sempre in diretta ed essere sempre a condividere, piuttosto che umanamente ad esserci. Sì, perché uno dei quesiti che viene da porsi è che cosa scatti nella testa di una persona che decida, esatto, nel momento in cui vede qualcuno morirgli davanti o a rischio di morte, di prendere uno schermo, mettere un telefono, un display e frapporlo tra sé e un eventuale, no, intervento, poter aiutare la persona. Esatto. Allora uno si chiede, ma è davvero soltanto esibizionismo, quindi una sorta di voyeurismo attraverso il quale poi ti esibisci tu? O c'è dell'altro? Perché non si capisce più, cioè è una cosa talmente paradossale. Io credo che ci sia anche una povertà umana e di sentimenti che sta alla base dell'essere sempre soli con il proprio io e basta. Questo veramente è la cosa più triste in assoluta. Sì. Però l'idea di costituirsi parte civile è un gesto molto forte. Cioè, questa persona, io non la voglio difendere, per carità, anche perché adesso si è trasformato tutto in una gogna mediatica, sì, a suo danno. È l'altra faccia della medaglia. Esatto, l'altra faccia della medaglia. Si è trovato però in una situazione, è incocciato in una situazione che, suo malgrado, ecco, che non voleva. Magari reagito, ma sicuramente avrei agito in modo sbagliato nel riprendere e filmare, però adesso passa dalla parte del, come dire, di quello quasi colpevole di tutta questa vicenda. No, cioè, logicamente tutto deve essere ricondotto, ma io credo che una comunità che non deve semplicemente asfaltare strade, piuttosto che, insomma, realizzare eventi come può essere per la città di Riccione, deve essere anche pronta a stigmatizzare questo tipo di comportamento per aiutare, come dicevo, anche ad una riflessione. Quindi sono assolutamente d'accordo. La scelta di andare anche a costituirsi parte civile e far capire che questo tipo di atteggiamento non va preso sotto gamba, ma va anzi stigmatizzato, analizzato e aiutato, perché altrimenti finiamo veramente sempre per parlare e non agire. Oltretutto, sindaco, è una storia abbastanza anomala, perché parliamo di una figura, di un ragazzo di 30 anni più o meno, che leggo è stato anche candidato consigliere comunale a Riccione, che è uno studioso di arte liberty, che è stato artista alla Biennale di Venezia. Cioè non parliamo di un ragazzino senza un minimo di consapevolezza, e questo stupisce doppiamente. Esatto, forse qui è ancora più grave, perché anche essendoci un livello, diciamo, di studi e di propria cultura, però ancora di più abbiamo posto notare, insomma, come è emerso il proprio io, il proprio voyeurismo, piuttosto che la necessità di usare il telefonino per quello che veramente doveva essere usato. Sì. E quindi nel chiamare soccorso. Sì, questo poi si vedrà, perché lui dice in realtà qualcuno li aveva già chiamati. Ma prescindendo da questo, sì. No, però questo a livello processuale eventuale farà una differenza, perché chiaramente se fossero già stati avvisati i soccorsi. No. Occorre che le priorità siano ben alte di fronte anche ad un evento di questo genere. Anche abbandonarlo il telefonino, forse oltre al fatto che permane comunque poi un discorso di violazione della privacy, cioè che una persona stia in un incidente mortale e debba essere ripresa sapendo che il video degli ultimi momenti della sua vita possa andare in giro, e poi questo è l'aspetto che anche inquietante, mercificato, perché poi anche quella che può essere una reazione emotiva, perché non so se ieri leggevi, Alessandro, lui ha addirittura parlato, ha dato la colpa alla società che non ha più valori. Che cosa volesse dire? Però resta un mistero arcano per Renata tutti. Tosi, resti con noi, sindaco di Riccione, perché vogliamo introdurre un altro ospite che ci parla di una vicenda che riguarda i social. L'uso dei social è una vicenda ben diversa, ovviamente. Beatrice Squarci, che è con noi. Buongiorno, signora Beatrice. Buongiorno, e grazie buongiorno di essere con noi. Madre di un bimbo, Olmo, con la sindrome di Down. Un ragazzo 14enne. 14enne con la sindrome di Down, che è stato veramente bullizzato, ecco, da alcuni, devo dire, tre soprattutto, compagni di calcio, allora, negli spogliatoi. Cosa gli hanno fatto? Allora, io più che puntare l'attenzione su quello che è successo, perché è nato tutto da un gioco di gettare la schiacciata dopo l'allenamento negli spogliatoi della doccia, e quindi se la tiravano l'uno con l'altro, e poi Olmo mangiala e Olmo se l'è mangiata questa schiacciata. Terra? Però per terra se l'è mangiata? No, la raccolta e l'ha mangiata. Sì, chiaro. Però era immagino, come dire, caduta per terra, cioè un'umiliazione abbastanza. Però più che puntare io da madre del ragazzo che ha subito questa cosa, voglio puntare l'attenzione non tanto su quello che è successo, che noi come famiglia abbiamo metabolizzato, stiamo sostenendo Olmo, perché oltre alla consapevolezza che lui ha già di quello che è successo e che gli ha fatto schifo perché l'ha proprio detto, appunto in quel momento lì, cioè, lui ha avuto una persona che ha cercato di aiutarlo, c'è stato un ragazzino che ha detto infatti. No, e non essendo però riuscito a fare che quel no fosse efficace, quindi a impedire che comunque Olmo quel pezzetto di schiacciata lo mangiasse, è comunque il giorno dopo andato da un professore e ha detto tutto, quindi ha dimostrato. Quindi lei vuol porre l'accento su una persona che invece, allora, ha agito bene, su quello, perché in questi episodi è difficile che la persona che è oggetto di questo tipo di attenzioni non belle magari reagisca o dica o denuncia, eccetera. È importante lavorare sulla cultura, appunto, perché ci siano sempre di più di questi ragazzini che denunciano, che dicono no, che si oppongono e che sanno già da che parte stare, perché in questi casi c'è solo una parte in cui stare. Che lei, no? Signora Beatrice, però questi giusta. Ragazzi, lei ha fatto un post su Facebook, li ha definiti, perché lo dobbiamo certo, dire, stronzi, questi ragazzi. Era a caldo, assolutamente. Ma ci sta, esatto, era un po' quello che pensavo in quel momento, e quella riflessione lì, che ha creato tanto clamore, perché poi dopo è stata... Però Beatrice, ho letto anche invece che lei con i genitori che si sono scusati, che hanno detto sì. che tenteranno di recuperare i figli, è stata assolutamente invece morbida e indulgente, dicendo mi raccomando che ci sia un recupero per tutti. È la mia linea, assolutamente, della mia famiglia e di tutta l'associazione Trisomia 21 Onlus, di cui faccio parte, quella di dare assolutamente la piena fiducia e il pieno sostegno alle famiglie e ai ragazzi coinvolti, perché dobbiamo... Non dobbiamo mai smettere di avere fiducia proprio in queste nuove generazioni, che anche se hanno fatto una cosa di cui non c'è da andare fieri, però possono assolutamente, hanno assolutamente la chance e la possibilità di cambiare, di recuperare, tipo certo. di recuperare. Quindi io ho una pienissima fiducia in questo, e che ci siano sempre più ragazzini come... Ma anche perché, signora Beatrice, certo, purtroppo il bullismo c'è sempre stato, no? Sì, certo. Un tempo certo. forse non c'erano questi social che amplificano tutte queste scene, perché qui sì. c'è, come dire, oltre al bullismo che c'è sempre stato, qui c'è la goduria stupida di anche esibirlo, no? Di magari sì, mandarlo in giro. Forse possiamo anche dire però che in questo momento in cui non si fa altro che dire che tutto ciò che è politicamente corretto è sbagliato, che bisogna far sentire la pancia, che bisogna sdoganare determinati principi, c'è anche un po' un incitare a voler rompere tutti quelli che sono i confini e i tabù anche etici, di civile convivenza tra le persone, per cui poi i risultati sono anche questi. E allarma quando sono ragazzini di 13 anni. Non c'entrano niente le due cose, ma tanto quello che dà i volantini con Anna Frank con la maglietta della Roma, tanto quello che bullizza un ragazzo con la sindrome di Down dentro a uno spogliatoio. Guarda, Veronica, è un messaggio per esempio che arriva: ma perché da giornalisti, nel caso ovviamente quello di Riccione, che cosa avreste fatto dopo aver chiamato i soccorsi? Cioè, questo sottintenderebbe che un giornalista dovrebbe riprendere un ragazzo che sta morendo, che non è una notizia di cronaca. Voglio dire, la notizia di cronaca è leggere sul giornale il giorno dopo che purtroppo un ragazzo di 24 anni per un incidente stradale è morto, perché è una notizia riprenderlo e mandarlo in diretta. Ma dove siamo arrivati, voglio dire, con la concezione anche del giornalismo, della diffusione delle notizie? Una riflessione in più che si può fare è quella che qualcuno sostiene che frapporre uno schermo fra sé e l'immagine che stia accadendo a volte sia anche un modo, come dire, rassicurante per cercare di avere un filtro con la realtà, come a cercare un supporto. Può darsi che ci sia anche questo, non è un elemento da sottovalutare, perché molto spesso accade, però poi resta quello che dicevamo prima, la reazione emotiva, per quanto sia, poi diventano click. Ve lo ricordate quello che è successo a Venezia, credo un anno fa, quando un cittadino straniero, credo del Gambia, si buttò nel Canal Grande, si buttò si suicidò proprio, morì e tante persone ripresero. Africa! Butta salvagente! Qualcuno butta salvagente, ma altri Africa! Insulti! Per carità, e tutti col telefonino a riprendere, ma non lo so. Io non lo so, sindaco Renata Tosi, torniamo per un attimo a Riccione. Per carità, è facile anche star qui a pontificare, a condannare, a dire così non si fa. Per carità, non vogliamo scadere nel moralismo proprio d'accatto, però. Una valutazione va fatta, no? Beh, non si tratta di condannare, si tratta, come dico, di tornare alle vere priorità. Cioè, quando si è di fronte ad un evento, ad un fatto di questo genere, a qualcosa come comunità e come cittadini si è fallito. Quindi dobbiamo necessariamente tornare anche a far capire ai nostri ragazzi che le priorità sono appunto il supporto all'essere umano, la vicinanza, l'umanità, e non è un click, non è un mi piace, non è un video. Quindi bisogna tornare alle cose vere e appoggiare nuovamente i piedi per terra. Su questo non è una questione, anche la nostra Costituzione di parte civile proprio è volta ed è finalizzata non certo a prendere qualche euro, ma a dare il giusto peso della gravità di questo fatto e del voler esserci per aiutare queste generazioni, cioè non far finta di niente, non nascondersi e dimenticare in un nanosecondo, ma anzi continuare a far sì che si punti l'attenzione su un evento, su un fatto di questo genere, che appunto denota forse anche una mancanza. No, ma Sindaco, lei ha ragione, anche perché uno dei fenomeni allarmanti sembra essere il fatto che nessuno si preoccupa più delle conseguenze dei gesti che compie. Nessuno. Questo è il classico caso. Vogliamo sentire un ascoltatore, Roberto da Bergamo. Buongiorno, Roberto. Buongiorno a lei. Sì, io volevo portare una mia testimonianza accaduta nel giugno del 2013, quando uscendo di casa avvertì delle voci che chiedevano aiuto. Mi avvicinai, questo... Nel cortile di una vicina c'era una signora in una pozza di sangue che aveva tentato di suicidarsi, la figlia presente che non riusciva a reagire e a chiamare i soccorsi. Io intervenni, chiamai il 118 e successivamente anche il 112. Non toccai la persona per una questione di sicurezza e quant'altro. Dopodiché mi permisi di fare un piccolo filmato per mia precauzione, perché una volta arrivati i carabinieri non fecero, a mio avviso, con le dovute verifiche, ma quel filmato logicamente rimase fra me e lo consegnai ai carabinieri per darlo poi ai familiari, capire magari al meglio quello che stava succedendo. Conto è filmare magari per dare anche una testimonianza che può servire, un conto è diffonderla. Questo lo dicono anche alcuni messaggi, che dicono registrare si può fare, nel senso, se è volto certo a questo, che si suppongo, può fare. No, condividere è sbagliato. Sì, poi anche sul registrare, io ripeto, non so nella testa di una persona che sta morendo, per esempio un incidente stradale, quanto piacere ci sia ad essere registrato. Questa è un'altra dei quesiti. Questo sì, no, però se è utilizzato per poi fornirlo agli inquirenti in caso di dubbio, oppure anche se si vuole ai familiari se intendono vederlo, può avere anche una funzione di questo, una funzione, cioè mettersi al servizio di un'eventuale inchiesta, per esempio. Sappiamo che ci sono stati anche casi, anche non so, di pestaggi, problematiche, in cui poi dopo, attraverso i video delle persone, si risolvono magari dei casi. Questo sì. In ogni caso, noi dobbiamo salutarvi, ma vi ringraziamo molto. Renata Tosi, sindaco di Riccione, e Beatrice Squarci, madre di Olmo. Grazie per le vostre testimonianze. Il tema ovviamente diciamo un'ultima ampio, cosa, Alessandro, che dall'altro lato poi quelli che invece si sono messi a dire impiccati, ammazzati, non hai ragione di esistere, Andrea Speziali, al ragazzo che ha ripreso, poi non sono molto distanti, perché il fatto che poi parta la gogna al colpevole lì uno non rifletta sui suoi gesti prima di augurare la morte, minacciare le persone, è lo stesso criterio, cioè pensare, contare fino a 10 prima di fare le cose e pensare che i gesti hanno delle conseguenze, non come è tutto. Diceva quel tale tanti anni fa, coincidentia oppositorum, gli opposti coincidono. Io ho sempre pensato questa idea, che non vuol dire poi tu mi accusi di essere sempre così, ma prendi una posizione, ma di qui io vivo di dubbi, e allora quelli non mi permetterei mai di augurare casi come questi, il che i dubbi male a questo Speziali per aver fatto questa cosa. Mi interrogo, ma anche perché dov'è l'utilità, cioè dov'è l'utilità di augurare a qualcuno impiccati e muori, piuttosto un semmai uno un prende click. È questo il discorso, altrimenti prendi delle educhi le persone, cioè prendere delle decisioni, e come dicevamo prima, il DASPO eventuale per i ragazzi che hanno distribuito i volantini, il sindaco che si costituisce parte civile sperando che in questo caso ci siano delle conseguenze, da un punto di vista proprio legale, non so come dire, non con i click e la gogna mediatica. È così, Cusano, la coincidenza oppositorum. I funamboli. Though you've gone away this morning, you'll be back again tonight, telling me there'll be no next time if I just don't treat you right. You'll never leave me and you know it's true, 'cause you like me too much and I like you. Diciamo che la parte, diciamo, pensante della curva sicuramente non è su quella linea. Purtroppo, come in tutte le comunità, ci sono, nel caso della Lazio, ci sono centinaia di migliaia di persone, e ci sono anche le persone, soprattutto i giovani, che, ecco, parliamo di persone di 13 anni, che non hanno, secondo me, neanche la contezza di quello che fanno. Claudio Lotito, presidente della Lazio, poco fa, 24 mattina, microfoni di Luca Teresa e Oscar Giannino, Veronica, ma secondo me ha ragione Telese che alcuni semiatea. Secondo me c'è una semiatea, perdonatemi su questo. Poi adesso non voglio dover difendere i laziali e dire che non sono che questa no associazione per cui sono tutti quanti fascisti non è vera, no, è un'eresia, no, che abbiamo visto queste cose in tutte le curve, in tutte le salse. Però a Roma piace dire laziale, no, come sinonimo di fascista un po'. Ah, attenzione. Credo che ci sia questa tendenza, attenzione. Però ti ripeto che brancolo nel buio, perché come avventurando, come mi hai detto ieri con sprezzo, mi hai fatto ma che ne capisci tu di calcio? E io ho risposto ma io stavo parlando di altro, esonda era anche una cosa calcio, etica. Esonda dal calcio. No, c'è da dire che su questa ragione lo Tito, voglio dire, non è che quelli che vanno allo stadio sono tutti così, anzi, la stragrande maggior parte di chi ha ragione stadio, anche sul fatto che i ragazzini di 13 anni, quello che dicevo prima, secondo me alcuni veramente non hanno nemmeno consapevolezza, però è proprio qui che interviene l'educazione, sì, anche in maniera coercitiva. Sì, non credo, cioè, che l'educazione la debba dare una società di calcio, l'educazione la deve dare la famiglia, l'educazione la deve dare la scuola. L'educazione è esteso in tutti i sensi, l'educazione la dà anche lo Stato a volte. Sì, per lo cui Stato attraverso, in cui la scuola, attraverso la scuola. Sì, no, ma anche a livello di comportamenti disciplinari, nel momento in cui fai, ti prendi il DASPO a 13 anni non puoi più andare allo stadio mai più. Lo Stato interviene così, interviene con se fai un reato, questo è ovvio, lo Stato interviene con i magistrati. Se no, purtroppo mi tocca dar ragione a te e dire che diventano iniziative ipocrite, per cui ci puliamo la coscienza, leggiamo per carità un po', che è utile. Un po' ce n'è di ipocrisia in questo momento, però se ne discute anche con voi 800 24 00 24. È vero, saranno un però manipolo. Gli sms si mandano al 349 238 6666, adesso che ho imparato, fammelo fare. Sono ovviamente un manipolo di poche persone che spesso tengono anche in scacco le curve dei tifosi. C'è, guardate qui, il nostro amico Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Avvocato, che t'hai combinato stavolta? Tu che vorresti chiudere la curva della Lazio, eccolo qua. Tu che sei della Roma, d'altronde. Che state dicendo? Che stiamo dicendo? Come si può dire che non si ha di quello che si fa? Questo l'ha detto lo Tito. Quando qualcuno va a prendere l'immagine di Anna Frank, va a fare un fotomontaggio, una costruzione complicatissima per fare mettere la maglietta della Roma, quando fa le copie, le porta da qui e di là, eccetera eccetera, cioè è forse una si cosa riferiva che al tredicenne, dice, no, no. talmente ma che è vero, tredicenne però non c'entra niente, perché il fatto che ci sia un tredicenne può scusare un'organizzazione delinquenziale di questo genere. Rienzi, tu non ti devi non arrabbiare, pensa, di non è il tredicenne, non tredicenne era un'apologia di non questi è fatti punibile. Quindi li non abbiamo parlate condannati del tredicenne, strenuamente, perché voi state cercando di spostare l'attenzione ma sul chi? Tredicenne, no, ma chi? Perché ma no, poverino è a 13 anni. Ma Rienzi, ma se ho iniziato la puntata dicendo che sono dei criminali, dobbiamo supporre che non hai ascoltato la trasmissione, no, fino adesso. Io non ho ascoltato, allora, però adesso ho ascoltato questa intervista di Lo Tito che dice che non hanno contezza. Ma che mi frega che ma Lo Tito è un pezzettino. Dai, è un pezzettino, ma anche Lo Tito da Telese ha condannato assolutamente questa cosa. Ma dai, non è che era un pezzettino dell'intervista che è andato. Ma certo che l'ha condannata. Bisognerebbe farli vedere a questi qui, questi tutti laziali, metterli come era tutti per Fantozzi, no? Sì, metterli in una stanza e fargli vedere come facevano vedere il film poi La corazzata Potemkin, sì, ai quelli della fabbrica dell'industria, sì, della fargli vedere le immagini dei lager con i bambini. Ma questa è la questione, perché a tutti vedere proprio come rieducazione. Ma perché a tutti? A quelli che fanno queste cose, perché gli altri non li denunciano, perché gli altri li coprono. C'è una responsabilità oggettiva della squadra, sì, e degli forse altri forse più tifosi, che dire a tutti i laziali potremmo dire a molti ultra. Avviene. Rienzi, un attimo, forse invece di dire a tutti i laziali, tra cui ci saranno persone che invece altri, proprio tutti quegli ultra che hanno questi atteggiamenti coperti, aggressivi. Sì. Si parla in due, non si capisce niente. Allora, ho detto che li avrebbero coperti chiunque, nessuno li avrebbe denunciati. Chi dei laziali ha fatto questa denuncia? Nessuno. Ma bisogna prendere quelli responsabili, perché tu, cioè, tutti quelli che domenica erano allo stadio rimandi a vedere. Sono responsabili quelli che stanno a fianco, quelli che stanno più sotto, quelli che stanno più sopra, quelli che hanno visto e sono zitti. C'è una responsabilità per omissione di tutti quanti. Tutti quelli che erano allo stadio, tutti. Tu tutti quelli che hanno avuto la possibilità di vedere quello che stava accadendo e non sono andati col telefono di persona a denunciarli, punto, tutto qui. Quindi cosa proponi? È vero che proponi di chiudere la curva 3 anni? Quindi c'è una responsabilità oggettiva della squadra, bisogna dare una lezione a queste persone che devono capire che non ne hanno un profitto da tifosi sportivo, ma hanno un danno, solo così si può ottenere un risultato. Colpirli. Non c'è altra strada. E come? Cioè, perché hai fatto una proposta tu? Sì, hanno detto di chiudere per 3 anni le partite della Lazio al pubblico, di chiudere la curva della Lazio, ma sono sempre cose palliative. Ripeto, l'unica cosa sarebbe fare dei corsi e fargli vedere le fotografie di quello che accadeva nei lager nazisti. È l'unica cosa che non vedo soluzioni veramente valide. Cioè, tu dici una specie di cura Ludovico come in Arancia Meccanica, con l'occhio spalancato e uno gli fa vedere tutte le immagini delle violenze che sono state. Così non avrebbero mai il coraggio di fare una cosa del genere, perché sapendo quello che accadeva, sapendo quello che hanno patito questi bambini, sapendo che a 13 anni quel ragazzino che ha fatto questa cosa, altri tantissimi, migliaia e migliaia morivano sotto le torture o comunque... Insomma, ecco, in questo io credo che si creerebbe una coscienza. Temo che se uno ha 25 anni, non lo so quanti anni hanno quelli che hanno organizzato questa cosa, se a 25 anni si mette a organizzare questa cosa, io credo che la rieducazione per questa persona sia una battaglia strapersa. Forse a 25 anni è un po' esagerato dire questo, Alessandro. Ma strapersa! Però. Non è vero, perché a 25 anni non hanno nemmeno vissuto il periodo del nazismo, non hanno vissuto il periodo della Shoah, non hanno vissuto, quindi non lo sanno. Bisogna pure pensare che non si insegna nelle scuole, non si fa vedere, non ma se non ne è fa vero cultura. Ma non è vero, ma si non insegnava è vero. Nelle scuole, cioè il diario di Anna Frank l'abbiamo letto tutti, credo. Cioè, non è vero, cioè ci sono film, scuola, ci sono documentari, dico. È giustamente uno dei momenti della storia è dell'umanità poco, più scavato, più raccontato, giustamente con la memoria, con i testimoni. Uno proprio deve girare la testa, chiudere gli occhi per non sapere niente di quel periodo, o no? Penso che queste situazioni, che non sono solo quelle del nazismo, perché anche nelle altre guerre abbiamo assistito, in Medio Oriente, in Africa, in Asia, assistiamo continuamente a pulizie etniche, a massacri. Non ci dimentichiamo che siamo, credo, con 69 focolai di guerra. Insomma, questo dovrebbe essere educativo per la gente, cioè si dovrebbe capire che la guerra è una cosa terribile. Quando poi è fatta in quel modo, come fu fatta al tempo del nazismo, è chiaro. Vabbè, comunque 3 anni di qua. Sentiamo Nino che ci chiama da Acireale. Nino, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Che propone lei? Io penso che per quanto riguarda la responsabilità, sicuramente ci sarà la procura che faranno le loro inchieste, anzi grazie alle telecamere che sono state introdotte, quindi con il provvedimento del passato, e queste persone saranno condannate. Io propongo che per poter avere uno sconto della pena pecuniaria, sicuramente ci sarà, che questi ragazzi, queste persone, gli venga imposto di imparare a memoria i diari di Anna Frank. Questo mi piace. A memoria no, magari leggerlo, studiarlo. A memoria. Interrogati poi dopo dal giudice per sapere Ottimo. Se loro l'hanno studiato o meno. Va bene, una proposta concreta. Potremmo fare anche una petizione forse. Di Nino da Cireale. Va bene, Nino, la ringraziamo. Se non altro la punizione diventa sufficientemente traumatica, perché ricordarselo tutto a memoria è tosta, per cui magari uno pensa un attimo prima. Ci pensa un attimo prima. Comunque Rienzi, ti ringraziamo. Guarda che qui, cara Veronica, Antonio da Latino scrive, cita anche la cura Ludovico, è proprio la donna da sposare. Vabbè, adesso non ti montare la testa. Però invece a me scrivono, Veronica ricorda ad Alessandro che ieri sera a San Siro ha segnato un calciatore di nome Milan e non era lui. È vero. Io Milan non so che cosa voglia dire. Milan ieri sera guardavo altro, però io... possiamo dirlo, ieri il Milan ha segnato. Andiamo al traffico. Veronica, guarda che c'è Leonardo Manera. Oggi mi ha piegato. Tu non sai cosa è successo. Leonardo, buongiorno. Annunciaci quello che ci dirai tra poco. Facciamo successo. Un'anteprima, aspetta, un piccolo trailer. Senti qui, stamattina... ho avuto un litigio sulle scale mobili. È l'applauso, standing ovation. È tutto vero, tra poco spiegherà perché. I funamboli. È tutto vero, è tutto vero, signore. È tutto vero, è arrivato stamattina. Purtroppo sì, ero sulla scala mobile, non potevo stare sulla destra completamente della scala mobile perché era tutta piena. Dal fondo un energumeno mi grida: cammina, cammina, cammina! E io: educazione, ci vuole educazione. Siamo arrivati sopra e lui torna da me e dice: hai sbagliato tu, dovevi stare sulla destra. Io dico: era tutto pieno, comunque bisogna essere educati. E così. E poi si è fermato a guardare il telefonino, come al solito. Come al solito. Perché in scala mobile a Milano soprattutto si corre. Sicuri che non fosse scherzi a parte che ha organizzato questa cosa per Leonardo? È la scala mobile che ti porta di sopra, poi devi aspettare che arrivi comunque il treno, soprattutto la mattina, anche se arrivi quando arriva il treno, non puoi entrare subito nel vagone perché è pieno di gente, c'è la ressa per entrare. Quindi, energumeno, che corri sulla scala mobile, non serve a niente, sì, se non a rompere le scatole agli altri. Lo dice al microfono, ma in faccia non gliel'hai detto. Tra l'altro questo sarà stato almeno 1,90, appunto, grosso. Appunto, vabbè, ha litigato sulla scala mobile, è ufficiale. Leonardo Manera, va bene. Così è la nostra società, cari. Era così. Sandro Manera, che in questo periodo si parla molto di inquinamento, di smog, di polveri sottili PM10, PM25. La caratteristica delle polveri sottili è che ti entrano in circolo senza che tu te ne accorga e resta lì per sempre. Poco alla volta, senza che tu te ne accorga, creano danni. Ma c'è un altro tipo di smog di cui oggi vorrei parlare, lo smog sociale. Sono quei comportamenti di persone che non avranno mai pene per 10 anni di carcere, ma poco alla volta, come le polveri sottili, entrano nella società, la modificano, la danneggiano e alla fine la fanno ammalare. Ci sono persone che sono smog sociale. Sono quelli, ne parlavate voi, che fanno bullismo sui ragazzi down, sono quelli che utilizzano l'immagine di Anna Frank con la maglia della Roma, sono quelli che quando vedono qualcuno morire per strada invece di aiutarlo filmano col telefonino. Sono un nuovo genere di uomini che hanno avuto una mutazione genetica, sono diventati dei super cretini che come superpotere hanno lo smog sociale. Probabilmente non andranno mai in carcere, ma socialmente sono più dannosi di uno scippatore. Entrano a piccole dosi nella società senza che tu te ne accorga, la fanno deperire, ingrigire, alla fine morire. Ecco come sarà la società quando tra qualche anno lo smog sociale diffuso dai super cretini avrà superato il livello di guardia. Andremo a timbrare il cartellino e poi torneremo a casa a passare la mattinata sui social, a insultare, offendere, a trinciare giudizi su tutti, ciascuno confortato dalla propria ignoranza. Quando c'è coda in autostrada ci metteremo sulla corsia d'emergenza, se c'è un'ambulanza in mezzo alla coda ci accoderemo a lei ridendo e deridendo il malato sull'ambulanza. Le uniche donne che saranno prese in considerazione dai super cretini saranno quelle con le forme evidenti, minimo quarta di seno, meglio se con labbra rifatte e fondo schiena in grande evidenza. Le altre non saranno considerate, tutte però saranno considerate zoccole, sia quelle che ci stanno perché ci stanno, sia quelle che non ci stanno perché non ci stanno. Le donne invece prenderanno in considerazione solo i super furbi, quelli che hanno capito che nella vita per andare avanti bisogna farsi i furbi, cercare di fregare il prossimo, per esempio parcheggiando la macchina nel posto disabili. In politica diventerà presidente del consiglio il politico che saprà gridare più forte, quindi il presidente del consiglio verrà nominato sulla base della consistenza delle corde vocali previo controllo otorinolaringoiatrico. Ci saranno anche alcune mutazioni genetiche, ci verrà un dito indice di 40 centimetri per far scorrere pagine al telefonino. In televisione il telegiornale si occuperà solo di quelli che succede, di quello che succede nelle varie case dei vari grande fratello che ci saranno. Chi cerca di essere educato con gli altri verrà isolato, deriso, umiliato e chiuso in un istituto di ignoranza per adeguarsi alle nuove regole. Non so se andrà proprio così, però anche se non andrà così, non andrà in modo tanto diverso, purtroppo, io credo. E ho paura, ho tanta, tanta paura, perché per il momento io con gli altri sono ancora abbastanza civile. No. Lo smog sociale, bella questa. È come il PM10, no? Che ti entra nelle membra, resta lì per sempre e poco alla volta ti fa ammalare. E secondo me il comportamento di questi, io dico, super cretini è così. Poco alla volta non te ne accorgi perché fanno cose piccole, ma modificano la società. E quindi diventeremo tutti un po' senza super cretini. Super cretini. Allora c'è Emilio che ci chiama da Milano. Buongiorno Emilio. È caduto, no, ma nel senso è caduta la linea, mi dice Peter, è caduto, sono sicuro che Emilio stia benissimo in questo momento. In piedi sarà? Sarà in piedi e starà camminando magari sulla scala mobile. Ovvio, ormai abbiamo un cervello in due. Forse è l'energumeno che ci sta chiamando per dire... Forse sì. Forse ha la sua versione dei fatti, perché dobbiamo sentire anche l'altra campana. La versione ti assicuro che è quella. Ma cosa ti ha detto bene da sotto? Camina, camina, gridando. Certo, se no non lo senti da sotto. Ma io non potevo perché ero lì tutto chiuso dagli altri, quindi non potevo neanche mettermi a destra, maledizione. Ti sei sentito in trappola, Leo? Mi sono sentito in trappola, ma mi ha dato veramente fastidio. Sai quando ti sale sangue alla testa? Poi questo, essendo grosso, per un attimo pensavo che scherzasse. Poi ho visto che era arrabbiato veramente... Era alto 1,90 m. Era alto 1,90 m, sì. E quindi è lasciato. Come dice l'ascoltatore, prova a farla a Hong Kong di stare sulla sinistra. Vieni travolto dalla fiumana di persone che corrono sulla scala. Ammesso che tu non finisca nella colonna di quelli con il cellulare in mano, fatta apposta, no? No, quello per è un altro super classico. Esatto, colonna col cellulare in mano e va bene. E lì allora, è finita, lì se ti travolgono è anche colpa tua. Signori, non vi preoccupate, qui lo smog sociale non c'è, perché siamo i funamboli, raccontiamo tante storie belle e diverse. Andiamo a sentire le informazioni del giornale radio. Poi, Veronica, abbiamo tanti altri temi da affrontare, tanti personaggi nella seconda parte. Tanti. E quindi state con noi. Non hai più niente da chiedere alla vita? Stai attendendo serenamente la tua ora? Sei ormai un peso per parenti e amici? Allora accelera la tua dipartita bevendo grandi quantità di vino Tronco. Il vino conservato in recipienti di cartone e amianto e derivante da vigneti coltivati sulla terra dei fuochi. Vino Tronco è il vino che aggrava ogni patologia e ne accentua gli effetti in modo esponenziale. Vino Tronco, l'ultimo vino della tua vita. Assenti ma a loro modo presenti, impegnatissimi ma che poi si impegnano ad esserci, attenti ma tanto distratti, volenterosi ma un po' impacciati, autorevoli ma anche giocherelloni. Federico, guarda che c'è una parola che riassume tutto questo, è padri. Ed è proprio di padri e ai padri che parleremo, per dare qualità al tempo passato con i figli, quindi anche al nostro. Padri casalinghi e padri incasinati, padri modello e padri single, padri separati, padri indaffarati, padri in pace con loro stessi, perché non ci sono né padri per perfetti e né padri imperfetti. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. La domenica alle 11 su Radio 24. Matteo, e le mamme? Per fortuna che ci sono. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I funamboli. It's a window say, go marching in, go marching in. Oh, Lord, I want to be in London. Window say, go marching in. Ma se questo ragazzo anche avesse già chiamato i soccorsi o qualcuno li avesse chiamati, ma come puoi mettere appunto, come dice Veronica, uno schermo tra te e uno che sta morendo? Milan, buongiorno, c'è poco da dire sul discorso Lazio, nel senso che questa gente non va fatta entrare negli stadi a vita. Se uno utilizza l'immagine di Anna Frank con uno scopo puramente offensivo, evidentemente la figura di Anna Frank la conosce, per cui non è un problema di ignoranza, è proprio un problema di menti bacate e perse. Bravo, perse secondo me, non bisogna sperare di recuperare tutti nella società, perse, ma questa è la mia opinione. Il problema infatti... è che poi sono sempre di più le menti perse, non vedo possibilità di cambiamento. Perdonatemi, una precisazione. No, attenzione perché Veronica li vuole recuperare, aspetta, professoressa Veronica Gentili, come si fa a recuperarli? Dai. No, con voi come vedete ormai ho perso le speranze, ma volevo, no, la mia precisazione era sull'ascoltatore che dice frapporre uno schermo in mezzo, non lo dico io perché... Chiaramente poi uno cerca anche di studiarli i fenomeni, oltre all'evidenza che è un ebete, è un idiota, uno sciacallo, tutto vero, si può discutere di questo, è un voyeur, esibizionista, però il fatto che spesso si metta uno schermo in mezzo, come quando uno dice perché non te lo guardi il concerto, perché non ti guardi la mostra, tante cose, cioè il fatto di mettere uno schermo, poi volendo leggere tra le varie declinazioni emotive del fenomeno, c'è anche il fatto delle volte del cercare di filtrare la realtà e sentirsi rassicurati. sentito, la sociologa, non lo dico io, no, lo dicono Gentili, lo dicono gli psicologi, la sociologa psicologa. Questo quindi, può darsi, tu fai pure lo spiritoso, no, perché, ma che spiritoso? Però, cioè, io penso anche che banalmente questo sarà stato contento di vedere quanti là e quante visualizzazioni aveva sul telefonino. Leo, tra tu hai ragione, ma questo è quello che abbiamo detto finora. Poi oltre a questo ci sono anche come i fotoreporter in guerra, che a volte utilizzano, no, chiaramente sì, fanno dei reportage, ma mettono uno schermo tra loro e quello che accade. Tra l'altro ti aiuta, informo la psiche, che il giorno dopo ha rilasciato anche un'intervista al TG1 per spiegare il perché del gesto. Quindi non so, un certo narcisismo forse ce l'ha. Comunque voglio dire, andiamo avanti. Il tema è sempre aperto, è il momento alle 10-10 minuti del funambolo non del è che giorno. Siccome c'è una lettura evidente delle cose, uno non può cercare di coglierne le altre sfumature. Se no facciamo sempre letture monolitiche. Via, le chiudiamo sfumature. Così. Le sfumature della Gentili. Dovremmo introdurre una rubrica. Poveri noi, mi viene in mente noi in questo momento le sfumature della Gentili. Poi dici, dopo basic, l'angolo di Yolanda, c'è cioè le sfumature della Gentili. Ma chi dobbiamo educare? Guarda come stiamo combinando qua. Ma chi dobbiamo faccio educare? Faccio fatica ad educare i miei due figli. Ha detto basic, che è un modo elegante per dire ottuso. Ottuso. Ti è piaciuta? Ottuso. Perché ogni tanto gli inglesismi, miei cari, servono. Sono chiari, nitidi, sono edulcorano. È una bellissima parola, secondo me, tra l'altro si usa poco ormai. Alle 10-11 minuti a me piace, dai, però è il momento dirla alla sciocchina faceva brutto. Del funambolo del giorno, che vi invito oggi davvero ad ascoltare, perché è una storia molto molto interessante anche di come vanno certe cose in Italia. Nome: Vincenzo. Cognome: De Marco. Età: 46 anni. Titolare di una ditta di onoranze funebri in provincia di Agrigento, ha perso molti clienti dopo aver denunciato il racket nei funerali. Eccolo qua, Vincenzo De Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. La sua storia è quella di una persona che da 25 anni è nel settore, appunto imprese funebri, sì. E poi sì, qualche anno fa, quando le hanno chiesto il pizzo, che si traduceva in vogliamo metà del costo, del tuo guadagno, lei ha deciso di denunciare. Siamo a Camastra, provincia di Agrigento. Siamo a Camastra, provincia di Agrigento. E che è successo? Quindi diciamo che la storia inizia nel 2012, quando vengo avvicinato da questi signori, quindi che vogliono farmi mi fanno queste pretese. Lei li denuncia? Io non ci penso un attimo, nel maggio di quell'anno li denuncio. Davvero non ci ha pensato un attimo? Non ha avuto paura sapendo che di solito... Sì, perché purtroppo viviamo in un contesto un poco particolare, perché siamo nell'entroterra siciliano, quindi la paura c'è sempre. Poi c'ho quattro bambini, e quindi la paura c'era e c'è ancora. C'è anche. Però, perché ci sono stati degli episodi. Ci sono stati degli episodi in quel 2012, quindi io non mi sono piegato a queste richieste. Quindi nel novembre di quell'anno mi bruciano l'autovettura sotto casa. Senta, ma queste persone quando arrivano da lei, in che modo le dicono che pretendono il pizzo? Qual è il modo di rapportarsi? Il modo di rapportarsi è: mi devi dare un tot sul tuo guadagno dei funerali che da oggi vai a fare. Cioè senza giri di parole. Così. Ma, no, vabbè, non ma fino al 2012 non gliene avevano chiesti? Sì, gli avevano chiesti, però diciamo in un certo qual modo si è un po' passati, ma poi le richieste si sono fatte pressanti in quegli anni, e quindi anche perché forse la loro idea era quella che poi nel gennaio del 2013 mi hanno aperto un'attività proprio in concorrenza. Questa è la cosa incredibile. Cioè i suoi estorsori a quel punto hanno aperto anche un'attività concorrente, e da quel momento lei praticamente lavora pochissimo. Se non da quel momento io non ho lavorato, diciamo ho lavorato sempre a singhiozzo, e le indagini sono continuate. Nel frattempo mi hanno fatto altri atti intimidatori, mi hanno bruciato il furgone dell'attività. Nel 2015 e 2014 mi hanno fatto un atto sul tetto di casa mia, che mi è volato il recipiente dell'acqua, quindi mi è stato sabotato. E quindi in questi anni purtroppo io ho avuto queste problematiche. Ma la cosa che sconvolge è che i clienti adesso si rivolgono ai suoi concorrenti, cioè ai suoi estorsori, e non a lei. Sì, la cosa che sconvolge è che a luglio del 2016, dopo 4 anni di indagini, quindi indagini fatte in una certa maniera, che 4 anni sono un bel po', li arrestano. Quindi io credo sulla base delle sue, sulla base delle sue denunce, quindi diciamo, sì, sulla quindi, base delle mie denunce e sulla base delle indagini che ci sono state, perché giustamente sono uscite anche altre cose, certo, sotto questo punto di vista, perché c'erano delle indagini, quindi lei pensa che in 4 anni hanno raccolto un bel materiale per poter tenerli là dentro. Allora la cosa più bella, tra virgolette, è che credendo io che a luglio del 2016 doveva avere un po' di pace, quindi li hanno arrestati, anche perché hanno arrestato, hanno raso al suolo un'intera famiglia, invece io da quel momento comincio a lavorare sempre di meno, e ad oggi io è da 7 mesi che non faccio un servizio. Ma secondo lei perché? Cioè, i suoi concittadini non le hanno dato un po' di solidarietà? Nessuno ha apprezzato il fatto? Allora, sotto questo punto di vista c'è stata pochissima solidarietà. Quando mi vedono magari mi penso forse quasi come se fossi un appestato, e quindi mi evitano, perché magari si spara. Io qualcuno l'ho fermato, perché poi in 20 anni di che faccio questo lavoro sono entrato in tutte le case di questi miei paesani, e quindi a qualcuno ho una certa convivenza di potergli dire: senti, ma come mai non mi ha scelto per questo servizio? E Vincenzo, purtroppo lo sai come vanno le cose qui a Camastra, abbiamo paura. E quindi, ma è questo, perché poi questo è il modo con cui la mafia, tra virgolette, lo dice, uccide. Sì, cioè, sì, si può uccidere anche un'impresa, si può. Ma secondo lei, da parte dei suoi concittadini, c'è solo paura o c'è anche una forma di disapprovazione per quello che lei ha fatto, cioè di aver denunciato il fenomeno? Secondo me sì, non credo che sia solo paura, perché fino a quando è la paura, non so, ma c'è anche questo discorso di disapprovazione, che io sono l'infame, diciamo, del paese, perché cioè come se lei avesse ribaltato lo stato di cose che ormai si dà per assodato e deve rimanere così. Siccome era da 40 anni, perché sono persone che hanno fatto 12 anni per associazione mafiosa, chi 6 anni, cioè sono persone che già hanno avuto dei precedenti, e quindi magari le persone, oltre alla paura, diciamo, hanno sconvolto un po' quello stato di cose che magari conveniva a tutti, non lo so io. Non so quello che fare. La cosa, la cosa che io ho colto in una sua, in un articolo che parlava di lei, è questa frase che per carità io non giudico, perché vi rendete conto, ascoltatori, cosa ci ha raccontato, il contesto anche sociale, quando lei dice a un certo punto: forse, se lo sarà chiesto 1000 volte, forse ho sbagliato, forse dovevo pagare. Sì, quello che mi viene sempre in mente, perché dico: forse avrò sbagliato, perché poi magari se c'è la disapprovazione di tutto il paese, magari uno si può convincere al contrario, però poi ritorno nella mia dignità e nella mia libertà. Certo, la dignità è fondamentale, però è facile da dire qui dai microfoni: no, lei ha fatto bene. Poi è lei che si sveglia a Camastra tutti i giorni, lei che perde l'impresa. Incontro le persone, purtroppo poi i miei figli vanno a scuola con dei compagnetti figli di questi signori, quindi il paesino è piccolino, 1500 abitanti, quindi... Ma hanno problemi anche i suoi figli? Cioè c'è un atteggiamento anche nei confronti dei suoi figli? Ci sono stati anche atteggiamenti, sì, perché noi viviamo sempre con la paura. Lei si figuri che non più tardi di 20 giorni fa hanno bruciato la macchina al mio socio, che è un socio in questa attività, quindi hanno bruciato la macchina il 4 di ottobre, e c'è un processo in corso, quindi figuratevi quando finirà questo processo cosa deve succedere. Perché adesso essendoci il processo, la situazione dovrebbe essere maggiormente sotto controllo. Sì, però dopo. Quindi gli hanno bruciato la macchina al mio socio, quindi diciamo sotto controllo un bel niente. Quindi la mia paura è questa, che di essere lasciato solo. Perché il discorso è questo: lo Stato dovrebbe mettersi al mio fianco e dire: Camastra, vedi che questa è la persona onesta da cui dovete indirizzare, non lo so io, anche perché loro volevano il monopolio di questa attività e lo stanno avendo. La cosa preoccupante è veramente quello che pensano i suoi concittadini, cioè l'ambiente nel quale lei deve vivere, al di là di questi che sono delinquenti, no? Perché ci si aspetterebbe una forma di solidarietà invece delle altre persone. Io infatti me ne andrei da domani mattina, immagino. Però purtroppo voi vi immaginate che da 5 anni che combatto con queste storie, quindi ho avuto dei danni oltre che danni morali, ma anche danni. Ma poi, oltre a non essere facile, ma perché uno deve essere costretto a sradicarsi dalla sua terra, dalla sua casa, dalle sue relazioni? Perché quello è il senso della sconfitta, devo andarmene. Perché? Non ora, ma anche fra, perché giustamente gli daranno una condanna a questi signori, quindi fra 8-10 anni, quello che sarà, io magari devo abbandonare la mia terra, e invece questi signori tranquillamente continueranno nel loro feudo a. Ma oggi lei lo rifarebbe? Io sì, lo rifarei sempre, perché quando poi mi rimetto in me lo rifarei sempre, sì. Però sempre con quella paura e quel discorso, certo. Di dire, ma perché poi mio figlio mi dice, ma è valsa la pena papà? Gli devo dare una risposta. Certo. Vincenzo De Marco, noi per quel pochissimo che possiamo fare, cioè di darle voce, quello che possiamo fare è questo. Non siamo lo Stato, voglio dire, le stiamo a fianco così, le diamo voce e torneremo a darle voce. Beh, la storia di Vincenzo poi ricorda la storia di Libero Grassi, che fu un famosissimo imprenditore che si ribellò e fu uno dei primi a ribellarsi al pizzo e lo pagò. Non finirà così, però. Ma certo che no, non finirà così, ma è rimasta una figura di quelle note alla lotta alla mafia. Noi, io per esempio, come attestati di solidarietà li ho avuti anche da uno che ha avuto la mia stessa disgrazia un po' di anni fa, che è Ignazio Cutro, che è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Testimoni di Giustizia, che mi telefona continuamente, mi dice come stai, come non stai, quindi diciamo sotto questo punto di vista, certo. Mi dice sempre: Vincenzo, non chiudere, perché dobbiamo dare il segnale a queste persone, però purtroppo non chiudere. L'indice si deve pagare, i mali si deve pagare, quindi lo Stato vuole il suo, però è la stessa cosa che le diciamo noi nel ringraziarla molto, con un pizzico di ritardo il traffico. I funamboli. Fonzi! Di qua! Dopo che stamattina ho saputo, Milan, che la Veronica è della Lazio, diciamo che possiamo anche mettere il Despacito. Vi saluto, ciao. Sabes que ya llevo un rato mirandote. Tengo que guarda come si tiene, guarda come si tiene, Veronica. Vorrebbe bufonchio tra i denti. Il Despacito, ma nera. Mamma mia, ci perseguita da aprile, Despacito. Non riusciamo da a liberarci. Da un po' prima. Leo, ma hai mai sentito di questa nuova usanza del Despacito sulle scale mobili? Se trova uno che ascolta il Despacito sulle scale mobili quel giorno. Immaginatevi, no, ma proprio non i passetti del Despacito, una scala su, una scala giù. Quel giorno non verrà a lavorare perché finirà malissimo. Cioè. Ci sono i suonatori in metropolitana che lo fanno. Questo è diventato un classico. Prima... Ovunque. Senti come suona. Passito, passito, Leo. Andiamo bene, cara Veronica. Allora, cara Veronica, caro Leonardo, però alle 10:23 minuti è venuta a trovarci ed è un momento importante, storico per l'Italia. E quindi è venuto a ritrovarci Battista da Cavaillon Veronese. Battista da Cavaillon Veronese. Perché, ragazzi, c'è stato c'è un referendum. C'è stato anche il referendum, finalmente abbiamo manifestato la nostra anche volontà di autonomia completamente, ma non solo di quella economica, anche sociale, no? Perché noi del Veneto siamo anche, diciamo, abbiamo anche una cultura, no? Non è giusto solo quella del meridione, anche quella del nord, è una cultura che ha diritto come altre anche di avere una dimensione di autonomia sociale, no? E finalmente possiamo anche risolvere tutti i problemi, anche grazie all'autonomia che avremo, no? Uno dei problemi, per esempio, Mina è anche la signora argentina, e quei dei zingari, no? Che anche c'è in tutto il Veneto, capisci? Io non ho niente contro i zingari, tranne quando me lavano il vetro della macchina col semaforo con l'acqua sporca. A Mastro Lindo gli è caduti i capelli quando ha visto uno zingaro che puliva i vetri, capisci, Mastro Mina? Lindo. E si sporca quell'acqua. E poi i zingari si arrampicano sulle grondaie, entrano negli appartamenti. Allora adesso che abbiamo autonomia bisogna fare una legge per l'abolizione delle grondaie. Ecco. Così i zingari non entrano più nelle case. Io sulla finestra, Mina, ho un pappagallo che non dice Loreto. Dice stai attento zingaro, stai attento zingaro. Hai capito, Mina? Sì. E anche quell'altra gentile. Ti trovi in casa i zingari. E tanto onesta, pare la gentile. Poi anche era il suo, no, magagne. E poi... Quali magagne? Quali sono le cose? Ne sa lei delle magagne? Ah, ma c'è io ho le fonti, no? E poi le fonti? Le fonti, ma no, attenzione. Te ritrovi in casa e perché non puoi usare le armi e altrimenti è eccesso di legittima difesa? Ma scusa, ma se entra un ladro a casa mia, cosa devo usare? La pistola d'acqua? Eh? La pistola d'acqua funziona solo se dentro metti l'acqua chiusa in zingari per lavare i vetri, così al ladro viene colera, capisci, Mina? Ma una volta un zingaro mi ha lavato il vetro con quell'acqua, il cruscotto è venuto a salmonellosi, capisci? Allora mandiamo l'esercito ai semafori adesso noi con autonomia, mandiamo l'esercito sotto alle grondaie. E invece il Parlamento non fa le leggi contro i delinquenti, il Parlamento centralista, perché non possono fare leggi contro loro stessi, perché anche loro sono magagni, no? Capisci, Mina? Il Parlamento è fare leggi per i cittadini, invece pensa solo a fare leggi a favore dei gay, dei omosessuati. Io ho niente contro i gay. Omosessuati? Stessa cosa, non fa chi la puntualizza, capisci? No, sempre lì a mettere i puntini sulle capa. Non mi piace. No, niente contro i gay, ma se Dio voleva che c'erano i gay, 10 comandamenti non li dava Mosè, li dava Elton John, capisci, Mina? Che poi Mosè era un uomo vero, Dio l'ha chiamato in un attimo, è salito sul monte in ciabatte e canottiera, se chiamava un gay era ancora adesso a sei scarpe per andare all'appuntamento, capisci, Mina? Sì. E poi non mi piace neanche adesso come si comporta la Chiesa, lasciami dire, la Chiesa. E che il Papa dice che bisogna aiutare tutti i migranti, ma è successo più di una volta che usano i soldi delle offerte per rifarsi le case, no? E per rifarsi attici, allora non mandate i chierichetti a prendere le offerte, manda direttamente architetti, almeno capiamo qual è la destinazione, capisci, Mina, onesta, gentile, pare. E comunque, e adesso col referendum per autonomia che è stato vinto, bisogna rinnovare anche la messa. 2000 anni che è sempre uguale messa, è lo spettacolo che ha fatto più repliche nella storia subito dopo Beautiful. Invece ci vuole una messa specifica per il Veneto, dove Gesù non fa moltiplicazione generica di pani e pesci, fa moltiplicazione di baccalà alla vicentina. Sì. E i profeti, uno non si chiama Isaia, si chiama Isaia, ti piace, Mina? Isaia, bello, Isaia, non è male il profeta Isaia. Perché Isaia dopo... sembra Zaia. Sembra gentile, che vengo lì a scoprire tue magagne a Roma, centralista. No. Per carità, centralista. Sì, beh. È romana, perché adesso noi dopo il referendum finalmente ci avviamo verso autonomia, verso la libertà, parola di Battista, e il Veneto senza peli sulla lingua. Oh. Yeah. Prendi questa mano. Vabbè. Zingara. Eh sì. Che dobbiamo fare? Ti ricordo che non è venerdì. Lo so, contato mercoledì, dai. Insomma, manca. Quindi ti sei giocato il bonus per venerdì. No, non sto cantando. Allora, caro Leonardo, vai, questo Battista, certo che voglio dire, è un po' aggressivo. Adesso, adesso diciamo che anche ringalluzzito da questo referendum, c'ha un attimo così. Va bene, guarda che ci sono tanti ascoltatori che ci chiamano. C'è Amalia da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Volevo intervenire su questa questione stadio, permettetemi, devo dire la mia. Io sono ancestralmente di origini ebraiche, sono tifosissima laziale, nessuno in casa mia era calciofilo, ho tre fratelli e sono l'unica a tifare la Lazio, ma da quando ero in Serie B, quindi sono abbonata. Come è successo? La domanda sorge. La domanda sorge, è successo perché io come la Lazio sono una solitaria, cioè non vado in gruppo, non vado in branco, sono un aquilotto vero dentro di me. E che pensa di quello che è successo? Io ho condannato 3 anni fa quando la sponda giallorossa, io frequento lo stadio, sul seggiolino io trovai l'adesivo con Anna Frank con la maglietta della Lazio. Però non si sollevarono scudi, non si sollevarono giornalisti, non fu chiamato nessuna quindi TV. Quindi non è la prima volta, anzi dice... No, questo accade 3 anni fa. Usato dai tifosi della Roma in questo caso. Esatto, io frequento lo stadio, cioè io ci vado allo stadio, sì. Io vivo a Roma e sono nel cuore di Roma. I muri sono dovrebbero radicalmente far pulire questi muri imbrattati. Questa mattina, se non mi sbaglio, il Tempo è venuto fuori con laziali ebrei, ce n'è tanto in giro, però mai nessuno, la comunità ebraica non ha mai fatto Maglia, è stato, è stato un errore, no. Prima forse, meno male che esatto. Adesso tre anni fa e ripeto, io sono di origini ebraiche. Lei dice quindi, che c'è un po' lo stereotipo che a fare queste cose siano solo i laziali, ci sono due pesi e due misure in questa città. c'è sempre stato. Beh, ma non mettiamolo nella questione, i romanisti possono sono sdoganati nel farlo, e invece è così, questo lei ci sta dicendo. No, le dico una cosa, questa mattina, come tutte le mattine, io ascolto Radio 24, non seguo la TV, io ascolto Radio 24, sì, e finisco con Cruciani. Mi sveglio con la rassegna stampa di Telese e poi insomma faccio le mie cose, ma sì, sempre con voi accanto. Mi piace moltissimo perché è tutto. Bene, questa mattina è intervenuto un senegalese nella trasmissione di Telese, sì, in cui diceva: ah, ma no, ma la Lazio è la squadra che è così. Ricordate il razzismo di Lulic quando, sì, disse a Rudiger dei calzini, che lui era un venditore di calzini, sì, ora sì, chiamare venditore di calzini io non credo sia un gesto razzista, però no, vabbè, per ricordare Rudiger è di colore, quindi non era il massimo dell'eleganza. Cioè, ma lei ci vuol dire, Amalia, che lì ce l'ho sfottò. Ma domenica scorsa, scusate un secondo, domenica l'altra, non è stato forse accusata la curva sud solo per una volta di aver insultato? No, ma Amalia, l'ex giocatore romanista. Certo, abbiamo capito, Amalia, che lei dice non sono solo i tifosi della Lazio, anzi quando lo fanno quelli della Roma c'è più indulgenza. Noi condanniamo tutti. Che questo è stato un caso estremo e quindi speriamo che serva a puntare l'occhio di bue su tutti quelli che sono gli episodi. Sai qual è il fatto che genere? Storicamente nella formazione delle curve ci sono degli orientamenti politici, è chiaro. Ma voglio dire, adesso però è un po' cambiato, non è più come prima, però storicamente è così. Sì, non la metterei tanto sull'aspetto calcistico, sono cattivi tanto quanto i nostri, alcuni di loro. Ecco, voglio dire, semmai hanno sbagliato 3 anni fa sicuramente e andava denunciato con la stessa forza i tifosi della Roma che l'hanno fatto e adesso quelli della Lazio. Non la metterei anche qui come rivalità calcistica, dire sono più impuniti loro rispetto ai nostri. Comunque, questo è il parere della nostra maglia, dobbiamo andare a sentire le informazioni sulla borsa e poi dopo... Io vi saluto che oggi devo andare. No, dove vai? Sulla scala mobile. Sulla scala mobile a sinistra. Ciao. Allora, cerca di comportarti bene, per favore. Tra l'altro sulla scala mobile anch'io ho un episodio. Ricordo quando mio padre, ero piccolino, guardava sempre il telegiornale e a un certo punto ci fu l'abolizione della scala mobile. Io lo guardai dicendo, ma papà, perché hanno abolito le scale mobili? No, ma è un'altra cosa questa, la scala mobile. Vabbè, insomma, un'altra storia che affonda le radici nella mia infanzia. Dai, comunque no, fatti dare la giustificazione da Leonardo, se no non va da nessuna parte. Non lo so, gliel'hanno firmata? Hai mal di testa? Emorragia, cefalea, eccetera. Va bene. Poi... Ciao Leonardo, stacci bene. Ciao, buona giornata a tutti. Leo, bravo, ciao. Fai il bravo. Ma Nera, non andare mai a vivere ad Hong Kong, perché se stai sulla sinistra sulla scala ti travolgo. I funamboli. E più facile che arriva una meteorite e scatta tutto quanto e non evitare di spasito la vostra radio, e ci è da avere. Cari italiani e care italiane, è con viva e vibrante soddisfazione che annunzio vobis gaudium magnum, mi candido presidente, perché sono stufo di vedere sempre le stesse facce in Parlamento e di sentir dire sempre le stesse cose. Soprattutto mi sono stufato delle loro promesse frivole e piene di stoltezza. Così ho deciso di scendere in campo e di proporre finalmente un programma serio, lungimirante e visionario. Un programma che farà di nuovo grande l'Italia, che è bene ricordarlo, è stata ben più grande dell'America del marito della mia amica Melania, Donald Trump. Allora, questa è la lettera che Stefano Torre ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni. Allora, Stefano Torre, forse gli amici Radio 24 se lo ricorderanno, si candidò a Piacenza. L'estroso candidato. Sì, non è riuscito a entrare per 70 voti in consiglio comunale, ma ha preso tanti voti con un programma assurdo. Diciamolo francamente, è assurdo. Nel programma c'era abolirò la morte, porterò i campionati mondiali a Bettola, il paese di Versailles, di sci, i campionati mondiali di sci. Non importa se lì ci sono 300 metri di altitudine, oppure renderò navigabile il centro di Piacenza. No. C'era quello di realizzare un vulcano a Piacenza. Ma siccome non è stato possibile farlo lì, in questo nuovo programma che ora andiamo a dire, propone di farlo a Milano. Milano, il Duomo. Allora, Stefano Torre, che intanto salutiamo, ben ritrovato Torre, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, il concetto di Stefano Torre, che uno potrebbe dire, vabbè, è un matto che si è svegliato una mattina, in realtà sottende un'idea che è questa. I politici, la politica, che promette e non fa, l'ha un po' stancata Torre, no? E, sì, quindi, e quindi tanto vale promettere assurdità. Sì, tanto vale promettere sogni più belli di loro, visto che siamo ad un livello di irrealizzabilità comunque identica. Quindi tanto vale dire, promettere, per esempio? Almeno l'utopia, almeno sognare. Ecco, il vulcano, il vulcano a Milano. Poi che cosa promette? Il vulcano a Milano, ma rendere Milano più simile a Napoli, perché Napoli è molto più bella di Milano. Bello, questo è interessante. Giusto. Ecco, per cui anche trasformare la provincia di Lodi in un lago salato, in modo da dotare Milano di una specie di mare. Giusto, mi sembra, mi veramente bellissima. È bellissima, certo. È straordinaria. Ecco. Sì. E poi anche sullo Ius Soli ho visto che ha una proposta. Sì, lo Ius Soli reinterpretato secondo il mio punto di vista deve diventare il concedere a chiunque in ogni parte del mondo di richiedere ed ottenere la cittadinanza italiana, con l'obiettivo di raggiungere i 7 miliardi di italiani entro il 2020 e ridurre così il debito pubblico pro capite a 300 euro. Facendo anche i calcoli a me è questo programma, certo, non mi spiace, è la soluzione definitiva. È vero, tra i vari programmi poi c'è qualcosa, non so, sull'economia. Questo già sull'economia mi sembra un punto controverso un pochino, che è l'asfaltare il Canal Grande a Venezia, che un attimo potrebbe trovare insomma i vaporetti hanno aggiunto dei prezzi che non sono compatibili con le disponibilità economiche della maggior parte delle persone. Tra l'altro, Stefano Torre, che sorride, quanti voti ha preso a Piacenza? Non è arrivato in consiglio comunale per 70 voti, ma quanti ne ha presi? Quanti Ne ho presi più di 1800, con quasi 300 voti che sono stati annullati perché la scheda delle ultime elezioni induceva con facilità solita contestazione. Allora Torre, noi le abbiamo chiamato un nostro amico che è l'onorevole Maurizio Bianconi, un combattente della politica, che sicuramente starà già fumando dalle orecchie a sentire una presa in giro della politica così esplicita e così evidente. Caro buongiorno Bianconi, ce l'ha in serbo qualche improperio per me oggi? No, per lei no. Per lei verrà offesa solo se provocherà. Provocherà. Allora io potrei anche farlo. Non mi provoca. Non provocherà. Niente. Allora niente. Di Torre è una cos'è? È una provocazione quella di Torre? Questo è un tentativo di futurismo che a me non dispiace per niente. La devo deludere. Non dispiace per niente perché la sua soluzione per la diminuzione del debito pubblico assomiglia, per assurdità, a molte di quelle che abbiamo sentito per quelli che prendono il voto. C'è uno che dice che vuole la doppia moneta e chiede il voto. Tutta l'Italia economicamente, tutto il mondo pensa che il prodotto interno lordo sia segno di sviluppo, ci si gira la vita degli uomini e invece il prodotto interno lordo non vuol dire niente. E tutti gli dicono bravo, è giusto che lui li mandi un pochino a fare a quel paese. Lui ha un problema, ha il problema delle firme, perché il sistema si è talmente autotutelato che uno che si vuole presentare deve raccogliere un numero di firme spropositato e con mezzi ridotti, quindi è quasi impossibile che riesca a cambiare. E questo lo farà. No, però l'idea, il futurista, bello questo aggettivo, È proprio tipico del futurismo. Rompere gli schemi. Poi è soggettivo quello che piace a lui. Insomma, a me asfaltare il canale costa troppo, andarci insomma, mi sembra un po' una coglioneria, però, sì, però altre cose insomma, va bene, anche in Bucana Milano non è che sia speciale, ma quella del debito pubblico però il lago diviso invece, per 7 miliardi, il lago salato a Lodi un po' le piace il, il mare a Milano è geniale. Perché segui gli schemi loro, capito? Sì. Loro hanno sempre il pro capite e glielo dà lui il pro capite. Certo. Il pro capite è una scemenza dei finanzieri speculatori e lui li cava la sete col prosciutto. Lo volete pro capite? Allora, 7 miliardi di cittadini italiani non abbiamo debito pubblico, è perfetto. Torre ha anche una proposta indipendentista, che c'è staccare Rimini dall'Italia e fare il golfo di Cesena. Non è male, così piatto, non è bello se fa il golfo. Diventa più anche qualche sasso ci potrebbe buttare. Poi dice che così potrebbe anche arrivare con gli incrociatori lanciamissili davanti a San Marino e dichiarare guerra a San Marino. Questa Torre, scusi, Torre. La dichiarazione di guerra a San Marino è un sogno di molti deputati. Vede Torre che alla fine le rubano il programma. C'è una convergenza. Ma perché vuol dichiarare? No, scusi, perché vuol dichiarare? Di orgogliosi sensi proprio. Perché vuol dichiarare guerra a San Marino, scusi Torre? Beh, insomma, io mi sono sempre chiesto come sia possibile che dei romagnoli possano giocare a fare gli stranieri. Non mi è mai andato giù assolutamente. Quindi conquistiamo San Marino. Ecco, e poi mi fanno concorrenza sleale, io mi occupo di web marketing, là ci sono centinaia di aziende come la mia, io mi domando come sia possibile. Come sia possibile. Allora facciamo così, andiamo un attimo al traffico, perché il programma di Torre, giustamente da Latina ci scrive un ascoltatore, non è matto, ha capito proprio tutto. Carlo dice: ha capito tutto Carlo da Latina. No, non ma è mio matto. Caro, sono anche in diversi che ci scrivono: io voterò Torre. Eccola, ve lo dico, quindi è un attimo. Adesso bisogna organizzare come raccogliere queste firme. Adesso ci muoviamo. Perché oltretutto ti interessa a te, anzi, interessava al nostro Manera più che altro. Propone di introdurre l'istituto del matrimonio a tempo determinato. Questo lo vediamo, per snellire lo vediamo. Con i divorzi, no? 3 anni e poi si rinnova tacitamente, altrimenti no. Lo vediamo tra un attimo. Il tema è la credibilità della politica. I funamboli. Allora, Stefano Torre, ma davvero vuole il matrimonio come a tempo indeterminato ogni 3 anni? Determinato. Sì. 3 anni e poi basta il posto fisso nei matrimoni. Tre anni e poi scade. Tacitamente si rinnova se non capita nulla, ma diversamente non si è più obbligati a fare pratiche costose. Tutta la trafila. Credo che Maurizio Bianconi, che ha avuto tipo 7-8 mogli come un musulmano, sarà d'accordissimo. Sarà contento Bianconi. Facciamoci da San Marino. La guerra a San Marino non è una cosa che è indesiderata al palazzo, molto desiderata. Ecco, vedi. Perché se si dichiara guerra, lo stato di guerra, la Camera le Camere non possono essere sciolte, vengono differite. Quindi se si dichiara di guerra o si riesce a farsi dichiarare guerra a San Marino, i deputati rimangono in carica. Quindi sono molti che stanno lavorando. Molti sarebbero entusiasti. Sì. Poi il matrimonio a termine mi sembra che sia dovuto, perché io sì, avevo avuto un po' di storie così, ma una sempre dietro l'altra, no? Insieme. La differenza fra me e i musulmani è che io facevo una battuta, poi un'altra. Però loro invece tutte insieme non mi pare questo che però sia. Però stai a vedere che il programma di Torre... Ma poi divorziava perché le insultava troppo? Termine, il matrimonio a termine mi sembra molto giusto, perché... essendo una forma di società naturale il matrimonio, ed essendo velocizzata molto la società oggi, ed essendo la vita sessuale va dai 14 ai 90 anni, una è poco. Insomma. Però Gianni Ancori non ha colto la battuta di Veronica, che ha detto che divorziava perché la insultava troppo, come fa chiedevo con Veronica. Chiedevo se le mogli, no? Le insultava troppo e allora ha divorziato con tutte. No, io ho grande rispetto per le mie mogli, sono anche loro hanno rispetto per me, ma io sono essenzialmente... uno che ha il conato di famiglia, la desidera, ma appunto non va bene solo. Va bene. Dobbiamo salutarvi. Stai a vedere che il programma di Stefano Torre, torneremo sul programma di Stefano Torre. Ma vogliamo chiudere? Secondo me diventa Premier. Io te la dico. Non credo, però chi lo sa. Chiudiamo però questo programma. Senti questa canzone. con un nostro ascoltatore all'estero che è Edoardo. Edoardo, buongiorno. Buongiorno. Tu buongiorno. Ci segui da dove? Precisamente da Helsinki in Finlandia. Ah, lo voteresti uno col programma che hai sentito? Matrimonio. È un genio. Vedi, potrebbe portare il Vesuvio a Helsinki, un attimo. Se si porta qualcosa che scaldi un po' il clima. No? Come mai sei a Helsinki tu nella vita? E mia moglie è finlandese, quindi abbiamo detto. Detto con un tono veramente. No, diciamo che è un po' il motivo classico per cui ci si trasferisce. Vabbè, ma cosa fai nella vita di Helsinki? Io sono un sales planner, mi occupo di previsioni di vendita per una abbastanza nota ditta che produce beni di consumo e di design, complementi d'arredo. E perché ci ascolti? Perché fa freddo. No, in generale ascolto spesso Radio 24 in podcast di solito quando ho un po' di tempo per tenermi aggiornato, anche per sentire un po' la mia lingua, altrimenti la perdo. Perché invece col finlandese vai una bomba, sei fluentissimo. Sì, immagino. Diciamo che me la cavo, però è stata dura. Io diciamo che me la cavo. Edoardo, grazie davvero. Allora, se ci ascoltate dall'estero, 349-238-6666, scriveteci e ascoltate il podcast, che così Veronica scala in classifica ed è contenta. Il nostro matrimonio a tempo determinato finisce qui. Ma domani alle 9 riparte.